English Bit di Giulia Crivelli. Rumor has it. Si dice in giro che la gente dice che. È il titolo di una delle più famose canzoni di Adele, tratta dal suo secondo album 21. L'artista inglese l'ha eseguita, insieme a molte altre, in un recente speciale a metà tra concerto e intervista andato in onda sulla BBC, ideato con Graham Norton, uno dei più famosi personaggi televisivi della Gran Bretagna, nonché grande amico di Adele, che segue fin dal suo album di esordio 19. Rumor è un false friend perché in nessun caso significa rumore, che si dice invece noise, bensì pettegolezzo o, con una connotazione un po' meno negativa, voce. Il termine è entrato anche nell'uso italiano, specie per quanto riguarda l'economia e la finanza. Rumor has it that the owner of Alibaba, Jack Ma, will buy AC Milan. Si dice che Jack Ma, proprietario del colosso cinese dell'e-commerce Alibaba, si comprerà il Milan. Torniamo alla bella canzone di Adele, che racconta di un presunto tradimento. You made a fool out of me. Mi hai reso una sciocca, mi hai fatto perdere la testa. And boy, you're bringing me down. E mi stai veramente distruggendo. You made my heart melt. Yet I'm cold to the core. Hai fatto sciogliere il mio cuore, ma io mi sento gelida fin nel profondo. But rumor has it, I'm the one you're leaving her for. Ma le voci dicono che la stai lasciando per colpa mia. Se rumor vuol dire voce, pettegolezzo, possiamo ad esempio dire to start to spread a rumor, spargere una voce, spread. There are widespread rumors of job losses. Si sta diffondendo la voce che ci saranno forti tagli all'occupazione. Some malicious rumors are circulating about his past. Circolano brutte voci sul suo passato. Oppure, in positivo e più nel senso di gossip, I heard a rumor that they're getting married. Ho sentito dire che si sposeranno. Come verbo esiste poi to be rumored. It's widely rumored that she's getting promoted. Ci sono voci insistenti su una sua promozione. Oppure, he was rumored to be involved in crime. Si diceva che fosse coinvolto in attività criminale. E concludiamo con Adele. Just 'cause I said it, I don't mean that I meant it. Solo perché l'ho detto, non significa che ci credessi. Just 'cause you heard it, solo perché l'hai sentito. But rumor has it, I'm the one you're leaving her for. Ma le voci dicono che la stai lasciando per colpa mia.